I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Nella relazione annuale dell'autorità e del garante della privacy Antonello Soro, due cose colpiscono sul fronte prettamente economico. Da un lato un allarme condivisibile, per alcuni versi anche prevedibile, ma a maggior ragione è significativo quando arriva da chi deve garantire la privacy dei nostri dati. Soro ha parlato di veri e propri grandi fratelli, tanti grandi fratelli che governano la rete e veri e propri monopolisti del web che possiedono un patrimonio di conoscenza gigantesco e dispongono un numero esiguo di aziende, tra l'altro di tutti i mezzi per indirizzare la propria influenza verso ciascuno di noi, con la conseguenza che un numero sempre maggiore di persone potrà subire condizionamenti decisivi e con l'ulteriore conseguenza che pochi soggetti hanno in mano una mole immensa di dati sensibili anche economicamente nei confronti dei clienti. Ma c'è un altro aspetto poco citato che invece ci ha sorpreso. Nel 2016, ha ricordato il garante della privacy, gli attacchi informatici hanno causato danni alle imprese italiane pari a 9 miliardi di euro. Un dato impressionante che vale circa mezza manovra finanziaria, ancor più impressionante se collegato a un'altra considerazione fatta da Soro. Meno del 20% delle imprese italiane fa investimenti adeguati per la protezione del proprio patrimonio informativo. Certo, questo non vuol dire giustificare gli attacchi informatici, ma una sensibilizzazione maggiore sulla necessità di fare investimenti prima che sia troppo tardi andrebbe fatta, e un po' di autocritica. Forse anche quell'80% di imprese che ne fanno poco o pochissima dovrebbero farsela. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.